la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in diretta qui da studio di Milano di Radio 24, 16:31 primi 23 secondi e in questo lunedì 6 di luglio il tema è obbligato ovviamente, le conseguenze, gli esiti, il significato del voto dei greci al referendum ieri, quindi se volete intervenire 800 24 00 24, il vostro opinione al 349 238 6666. Avremo due ospiti con due punti di vista diversi per interrogarci su alcuni degli esiti che possono o non possono, vedremo, avvenire nei prossimi giorni. Una cosa è certa, il tempo è rapido, i mercati non aspetteranno troppo per iniziare a apprezzare i rischi della piega che prenderanno gli eventi. Prima di aggiungervi poche parole del mio giudizio, quello più articolato lo trovate su Leoni Blog ed è l'articolo pubblicato oggi su Messaggero Mattina e Gazzettino, consentitemi di ricordare un amico che se n'è andato in questo fine settimana. L'amico è Giuseppe Bortolussi della CGIA di Mestre, spessissimo ospite a questi microfoni, un combattente per la piccola impresa, un innovatore nel modo di mettere insieme con pochi collaboratori i numeri della tassazione e del margine delle piccole imprese italiane, e ogni sabato era diventato un appuntamento obbligato per tutta la stampa italiana, e una persona che capiva non solo di tasse di imprese essendoci stato sempre dentro, ma che poi non spiegava i luoghi comuni. Vedete il suo libro Contro, uno dei concetti più comuni del dibattito pubblico, il famoso conflitto di interesse che secondo molti risolverebbe il problema dell'evasione fiscale ed è invece tecnicamente infondato, e lui ha sempre avuto, con lo stesso coraggio con cui polemizzava sul ritardo dello Stato nelle semplificazioni e nell'eccesso di tassazione verso la piccola impresa, non si piegava comunque anche ai luoghi comuni che spesso attecchiscono nel dibattito pubblico. Ieri la sua ultima dichiarazione che trovava che sulle agenzie era sull'eccesso di tassazione relativa ai mattoni, nel mentre per conseguenza il valore dei mattoni scende, e credo che Giuseppe ci lasci tutti con il significato di una vita di impegno civile, anche di impegno politico, di sinistra riformatrice, che però non si piegava ai luoghi comuni, per così dire, un grandissimo esempio a cui guardare per tutti coloro che vogliono un'Italia attenta sui numeri e che non consideri la piccola impresa come un limone da spremere, ma la consideri il grande patrimonio che rende questo paese non a caso quello con la più alta percentuale di piccola e anche microimpresa che esporta, che fa valore aggiunto, che difende i collaboratori in una logica non conflittuale ma di convergente interesse. Grazie Giuseppe, e speriamo di trovarci, di ritrovarci in un posto dove non ci sia l'Agenzia delle Entrate, e io posso solo dire che ho imparato da te e siamo in tanti a considerare la tua lezione come un punto di riferimento profondo su come si affronta la vita e come si fa il proprio mestiere. Allora, dopo questa pagina, dico subito che nelle ultime di giornata sapete che da Atene probabilmente la notizia ufficiosa è che le banche resteranno chiuse anche per i prossimi giorni, quanti giorni non si sa, quello che è evidente è che la decisione è obbligata, perché senza una decisione attesa dalla BCE per oggi sulla prosecuzione o addirittura l'estensione o la sospensione della linea di liquidità straordinaria LELA, le banche greche non possono in realtà aprire. Il problema non è solo quello della liquidità necessaria a farle operare, ma il problema rapidamente diventa, entro due settimane al massimo, entro il 20 luglio se non viene pagata la BCE, diventa un vero problema di ricapitalizzazione delle banche greche. Servirebbero un centinaio di miliardi di euro, perché se non avviene quel pagamento alla BCE lei la va sospesa automaticamente, e a quel punto però il patrimonio delle banche greche, che delle quattro maggiori che sta sui titoli pubblici che hanno in pancia, si azzererebbe, e a quel punto per operare dovrebbero essere ricapitalizzate. Se non la ricapitalizza l'Europa, dovrebbe ricapitalizzare il governo greco nazionalizzandole, e a quel punto ponendosi il problema di come le ricapitalizzerebbe. Questa notizia di giornata insieme alle dimissioni di Varoufakis, che erano annunciate, torna in America. La logica formale è quella di dire che serve per liberare la trattativa. Sapete che ieri sera la reazione di tutti i paesi dell'Eurogruppo vicini alla posizione tedesca, sono la netta maggioranza, è stata una reazione che era coerente alla linea. Bene, è molto difficile fare patti con questo governo greco malgrado il referendum, e quindi è un passo verso l'uscita dall'euro. Bisognerà vedere se c'è una terza posizione in evoluzione rispetto a questo. Stamattina si è sentito Tsipras con la Merkel, annunciandogli per il vertice europeo che si tiene domani con tutti i capi di governo proposte nuove da Atene. Sapete che il governo greco non vuole uscire dall'euro, vuole più aiuti dall'euro con la ristrutturazione del debito che l'Unione Europea ha, per così dire, evitato di trattare in tutti questi sei mesi, un grave errore secondo me. Resta molto problematica la terza posizione, a cui Hollande, la Francia e anche Renzi, con dichiarazioni questa mattina, dichiarano di volere incarnare all'interno del consesso europeo, dicendo che bisogna trattare con i greci accettando i loro punti, però con impegni seri da parte loro, e facendo capire che loro a questo punto sono per la ristrutturazione del debito. Ieri il più duro da parte tedesca è stato il vice premier Sigmar Gabriel, che è il leader dell'SPD, e ha detto senza dubbi l'uscita della Grecia dall'euro è più vicina dopo il voto del referendum. Questa mattina Sigmar Gabriel ha aperto all'ipotesi di una ristrutturazione del debito greco, ma solo in cambio, ha detto, di durissime riforme, se i greci questa volta capiranno che le vogliono fare. Nel frattempo Schäuble ha ribadito che il punto della ristrutturazione del debito greco non è all'ordine del giorno. Vedremo. Quello che posso semplicemente dirvi, e che avrete capito, è che devono essere rapide le decisioni al tavolo della trattativa, perché non si può stare settimane appese. Il 20 luglio appunto scade la rata alla BCE, da quel punto in poi, se non c'è un'ipotesi di accordo, per questo Tsipras ha sempre parlato di 48 ore, si mettono in moto una serie di conseguenze automatiche che portano all'uscita dall'euro, non perché lo ha deliberato, non lo può deliberare nessuno dell'euroarea, ma semplicemente perché le banche andrebbero per aria, e a quel punto sarebbe automatica, per così dire, la conseguenza. Allora, per primo punto su cui interrogarci, il primo ospite è un ospite che abbiamo scelto perché è un economista di grande vaglia, un ex parlamentare, ma stamattina ha subito scritto all'indomani del referendum un punto che riguarda esattamente la questione al centro di sei mesi di braccio di ferro tra il governo greco e l'eurozona, e la questione è esattamente quella della ristrutturazione del debito. Tutti sapete, immagino, che nel 2012 c'è stata una prima ristrutturazione col secondo programma di sostegno alla Grecia, che ha potato l'equivalente di 100 miliardi, 103 miliardi per essere precisi, il 60% dell'allora debito pubblico greco detenuto da privati. Oggi la questione è che il 90% è detenuto da istituzioni, cioè per l'80%, per così dire, dai paesi euromembri, veicoli da loro partecipati alla BCE, e per il resto dal Fondo Monetario. E il problema è che nelle regole europee un vero e proprio procedimento di ristrutturazione del debito in permanenza dell'euroarea non c'è, nel senso che l'ESM, che ha sostituito l'FSF come strumento straordinario per il sostegno ai paesi in difficoltà, in realtà dovrebbe essere piegato a questo fine, ma non nasce esattamente a questo fine. Cioè, delle regole per consentire la ristrutturazione del debito permanendo nell'euro, oppure per consentirlo con una specie di limbo, di sospensione a tempo dell'euro, ma con un cambio fisso vincolante per consentire la ristrutturazione venuto di rientrare nell'euro, oppure ancora di un meccanismo di ristrutturazione per paesi che non vogliono stare più nell'euro ma che vogliono rimanere nell'Unione Europea, cosa che neanche è ipotizzata nei trattati attuali. Nessuna di queste cose fa parte del set di regole europee dell'euroarea, e questo purtroppo, che non ci sia pensato nei mesi alle nostre spalle, è un'altra conferma degli errori di questo braccio di ferro che è a un certo punto sfuggito di mano. Allora, è con noi per parlarne Nicola Rossi, economista, ex parlamentare. Buongiorno e grazie di essere con noi. È caduta la linea esattamente in questo momento, e quindi adesso dobbiamo richiamarlo. Aggiungo solo che sui mercati questa mattina la tenuta degli scudi europei, come sapete, se avete sentito un giornale radio, è sufficientemente buona, nel senso che lo spread italiano ha toccato un massimo di 164-165, le borse sono chiaramente in perdita, ma non c'è il picco, per così dire. Quindi gli scudi, almeno al primo giorno, stanno reggendo, il mercato sta a guardare. Allora, è tornato con noi Nicola Rossi, buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio, salve. Come si fa a ipotizzare una procedura di ristrutturazione del debito a regole attuali? A regole attuali la vedo veramente molto complicata, diciamo, stando le cose come stanno ora, mi sembra, sarei per dire, quasi impossibile. Ma soprattutto, diciamo, provare a immaginare la regola attuale, a mio modo di vedere, avrebbe il problema serio di riproporre l'errore del 2012, e cioè una soluzione ad hoc trovata sul momento perché non c'è altro da fare. Credo che invece sia arrivato il momento di sedersi un attimo, casomai prendere non più di 2 o 3 mesi di tempo, e provare a immaginare una procedura di carattere generale per la risoluzione delle crisi del debito sovrano. Se l'avessimo fatto nel 2012 avremmo affrontato il tema della Grecia in tutt'altra maniera. Io ho l'impressione che non ci si renda conto che la storia ci insegna che le crisi del debito sovrano non derivano molte volte dalla insostenibilità dei debiti sovrani, ma dalla mancanza di volontà da parte dei paesi sovrani di onorare i loro debiti. Ci sono casi di crisi del debito sovrano che sono intervenute con rapporti debito-PIL che farebbero ridere, diciamo, rispetto a quelli che vediamo in Grecia oggi o anche in Italia. Quindi bisogna capire, cioè, nel senso che erano, cose, che erano molto più bassi, certo, 50-60%, eccetera. Allora bisogna capire che queste cose possono accadere, bisogna essere pronti ad affrontarle quando accadono, non in maniera ad hoc, ma questo per un motivo di fondo, perché se si sa prima quali sono le regole, anche i cittadini dei paesi che possono andare appunto in crisi sanno esattamente che cosa accadrà dopo. Io penso che avremmo aiutato i greci se avessimo stabilito delle regole prima. Sì. L'impressione che ha avuto lei in questi anni, dal 2012 a oggi, e in questi 6 mesi di trattativa dopo la scelta dei greci del governo Tsipras, poiché è quello che dice, per così dire, è oggettivo, no? Allora, di fronte a questa oggettività, che questo tema non sia affiorato, la necessità di predisporre regole per consentire questa ristrutturazione, rimanendo nell'euro, ripeto, o con una sospensione a tempo, con cambi più, diciamo così, entro una fascia fissa di oscillazione, come quando nella prima fase dell'unione monetaria c'erano i paesi che dovevano entrare ma dovevano rimettersi a posto per entrare, oppure anche nell'Unione Europea, si può fare in diversi modi. Ma come mai, secondo lei, questo tema nessun governo lo ha messo? Perché la mia sensazione è che non si volesse scrivere, perché in fondo si tratta di scriverlo, che le crisi del debito sovrano sono possibili. Ma questo significa, è come la sfida alla legge di gravità, nel senso che la storia ho capito. Concordo completamente, diciamo, ma come dire, è stato un esorcizzare un fatto di realtà, nel senso che la storia, diciamo, come dire, è piena di questi casi, non si tratta di scoprire nulla di nuovo, ma credo proprio che non si sia voluto, si sia immaginato nel 2012, risolviamo questo problema e poi non avremo più, non è vero. Ma lei non cosa pensa della, lei lo sa che nella Vulgata la risposta alla domanda che le ho fatto è no, perché i tedeschi e i paesi nordici, Austria, Olanda, Finlandia, ai paesi baltici e così via, in realtà hanno deciso Grecia fuori, e questo serve a tutti quelli che non osservano la convergenza di finanza pubblica, valga per tutti come lezione, perché altrimenti noi andremo avanti, ma per i fatti nostri, in un nucleo più convergente, per così dire. Lei crede che questa sia una possibile giustificazione? Onestamente, scrivere delle regole sulla crisi dei debiti sovrani non avrebbe assolutamente escluso, per esempio, la possibilità che la Grecia a un certo punto decidesse di uscire, ma l'avrebbe fatto a ragion veduta. Quindi non credo francamente che questo tema non è stato affrontato perché si voleva in qualche maniera, come posso dire, diciamo, aspettare il caso per formare un'eurozona più compatta. No, francamente non penso che sia questo il punto, detto con franchezza. No, penso che sia stato proprio un caso di miopia, e cioè risolviamo il problema di oggi e poi domani si pensa. A questo punto lei immagina che ci sia questo sussulto di responsabilità? Scrivere queste regole implica tempo, ovviamente. Nel frattempo significa che la BCE, visto che non, significa che noi non gli diamo gli aiuti per pagare il 20 la rata della BCE, significa che l'intera euroarea dice va bene, facciamo scadere anche la rata del 20, nel frattempo scriviamo queste regole, vedremo poi di fare una trattativa, passano comunque mesi, o mi sbaglio? Allora, il punto secondo me è il seguente: già è arrivata una risposta che non poteva essere diversa da Berlino e credo anche da Bruxelles, cioè non si tratta per la riduzione del debito, va bene? Sì. Questa risposta è già arrivata e non poteva essere diversa. Bene, siccome io penso che alla fine questo argomento lo avremo di fronte tanto per cambiare, e siccome ho l'impressione, me lo confermano anche le telefonate cordiali fra Tsipras e Putin, certo, che l'atteggiamento negoziale del governo greco, nel fondo, che ci sia Varoufakis o che non ci sia Varoufakis, non cambierà esatto, più di tanto. Anch'io penso va così. Bene, siccome le cose stanno in questi termini, allora veramente forse è il caso di intervenire, diciamo, per consentire alla Grecia di sopravvivere il tempo necessario, e poi di sedersi e scrivere rapidamente delle regole per tutti. E ci sono le proposte, già ci sono, sono cose così complicate, francamente. Penso che, diciamo, sarebbe una buona estate se la spendessimo a scrivere queste regole. Allora, io ringrazio il professor Nicola Rossi, perché mi sembra un esercizio di straordinaria ragionevolezza identificare questo come un punto di debolezza europea, che non significa automaticamente poi trovare gli accordi sulla condizionalità per ristrutturare il debito greco, ma almeno avere una cornice di regole condivise che vale per l'oggi e per il futuro, per sempre. Vedremo se le cose si mettono in questo senso, perché se ricomincia la cosa invece sulle frazioni di aliquote IVA, finisce Grexit. Questo è quello che pensa il sottoscritto. Torniamo tra un minuto con un altro ospite. Le vostre telefonate intanto a strada. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Sì, certo, ha ragione Claudio di Torino quando dice usi verbi ipocriti, perché sì, bisogna dire non pagare, non ristrutturare. In realtà ristrutturare, cioè diluire ulteriormente le scadenze a tassi fissi bassissimi, significa rinunciare non solo agli interessi ma a quota del capitale, cioè abbattere il valore del debito. Esattamente, ristrutturare significa questo, quindi non è questione di ipocrisia. Ripeto, gliel'abbiamo già fatto per 100 miliardi di euro, 103 nel 2012. Il punto però è aver fatto finta di non vedere che la richiesta dei greci era esattamente questa, e quindi ha portato esattamente a quello che loro volevano. L'Unione Europea ha fatto finta di non vedere, o meglio, forse il sottinteso della maggioranza dei paesi dell'Eurogruppo è quello di considerare che così va fuori la Grecia, è una lezione per tutti, e poi si va avanti più coesi. Questa è la lettura politica possibile di quello che è avvenuto. Allora è con noi adesso il professor Paolo Savona, professore emerito di politica economica, ex ministro, insomma, la storia della Repubblica che ha collegato la sua vita sia in Confindustria, dopo, eccetera, eccetera, ad atti importanti, passaggi importanti della storia del nostro paese. Paolo Savona è un critico dell'euro da prima che l'euro nascesse, lo è diventato sempre di più nel vedere come l'euro funzionava. Ha indicato, senza aspettare tumulti di piazza, punti di fondo della debolezza dell'euro e delle regole asimmetriche, per cui per esempio l'eccesso di bilancio dei pagamenti ben sopra il limite del 6% del PIL indicato dai trattati come una delle violazioni oltre le quali dovrebbero scattare le sanzioni, perché significa ovviamente rendere asimmetrica la possibilità di crescita rispetto agli altri paesi della stessa area monetaria. Insomma, ha indicato molti difetti dell'euro con passione crescente, e ha dato un giudizio anche del voto dei greci, dicendo è un voto che spero sia salutare, cioè che dia una lezione di discontinuità all'eurozona. Buon pomeriggio e grazie professor Savona. Ci può spiegare perché e cosa si aspetta adesso che avvenga e che cosa cambi nell'eurozona? Buon pomeriggio innanzitutto, e ce lo meritiamo dopo tante fatiche. Dunque, io penso che se riprendiamo le trattative nel punto in cui sono state interrotte, e ci sono tutti i sintomi che purtroppo così avvenga, sì, la situazione finisce come poc'anzi in chiusura della precedente intervista hai concluso, cioè finisce male con l'uscita della Grecia e il messaggio mandato al mercato che l'euroarea è un meccanismo che non funziona, che non è in grado di affrontare i problemi gravi, così come ha fatto la Federal Reserve di fronte alla crisi finanziaria tremenda che ha attraversato. Detto questo, quindi, la mia posizione è che bisogna evitare una nuova trattativa bilaterale con la Grecia e far incontrare i tecnici, ovviamente su delega dei Paesi membri, per stabilire una norma generale di trattazione di casi come questi. Quindi legiferare erga omnes, abbandonare il bilateralismo, altrimenti finisce sugli zero virgola delle aliquote IVA greche, ecco. Esatto, sono direi assolutamente problemi che avendo una forte carica ideologica, che oggi si è rafforzata, non si è indebolita, è chiaro, dopo il no della Grecia la situazione inizierebbe peggio. Almeno io non so se le dichiarazioni che ho letto oggi, tipo la Merkel o i tedeschi, che dicono non si può trattare, bisogna a un certo punto rompere. Però naturalmente per legiferare bisogna subito fare una messa in sicurezza delle banche greche del debito per il periodo necessario, che sarà lungo, il periodo necessario per individuare una norma generale che valga per tutto. E la norma generale non può se non essere quello di sistemare i debiti in eccesso rispetto al 60%, se insistiamo su questa percentuale, perché gli studi econometrici materia parlano di 70-90%. È uno dei tanti numeri per convenzione artificiosa di Maastricht. Esatto, manteniamoci pure il 60. E l'eccesso del debito va collocato presso un fondo della Banca Centrale Europea. Lei dice per tutti, non solo per la Grecia. Per tutti, ed ecco una norma erga omnes. E poi ciascuno Stato negozia sulla base delle sue possibilità di rimborso, negozia il rimborso a lungo termine, come è successo durante la grande crisi e come direi è successo anche durante l'ultima crisi, anche se i tempi sono stati più corti, perché sono intervenute le banche centrali che hanno inondato di soldi il mercato e quindi evidentemente il mercato ha potuto sistemare i suoi debiti nei confronti delle autorità molto rapidamente. Ecco, se procediamo in questa direzione, che darebbe il messaggio forte alla pubblica opinione, naturalmente se poi si riesce anche a aggiungere un collegamento diretto fra il quantitative easing della Banca Centrale Europea e il piano Juncker, allora il messaggio sarebbe ancora più forte. Perché ci sarebbe anche la crescita, non solo regole, esatto, per la messa in sicurezza del debito. Tornerebbe la fiducia. Le posso fare una domanda? Ritiene possibile, in termini di, come analista politico ed economico, che il nocciolo duro della purtroppo grande maggioranza dei membri dell'Eurogruppo stretti intorno alla posizione tedesca possano oggi avere gli elementi per abbracciare una posizione come quella che ha espresso? Beh, intanto abbiamo gli Stati Uniti terrorizzati che per la terza volta nella storia degli ultimi 10 anni l'Europa torna in crisi. E in questo momento, con i rapporti che hanno instaurato, giusti o sbagliati che con Putin, con la Russia di Putin, non è il momento, e che con i problemi dell'immigrazione, con i problemi con l'ISIS e così via, gli Stati Uniti eserciteranno pressioni e allora anche la Germania in un certo senso deve stare a sentire. Io per ora, siccome non si discute di questo, ma si discute della sistemazione del caso greco, io ritengo siamo indirizzati male. Sì. L'operazione che possono fare i media e gli economisti è insistere sul tema, fate una regolamentazione generale ergaum. E noi questo stiamo provando a fare, anche se la piega è quella di ieri sera e della linea precedente dell'euroarea, finirà male, perché le banche greche non reggono, vanno per aria e a quel punto si esce senza procedure controllate, senza risolvere il problema greco, perché i greci a quel punto si renderebbero conto di aver scelto per austerità subito, per così dire, nel loro referendum. Ma guardate che poi finiamo noi in prima linea e ci abbiamo tantissimo da rimetterci, oppure opinione opposta, ci sarà chi dice a quel punto usciamo anche noi e questo sarà uno dei possibili sviluppi politici da osservare in Italia. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.